avanti K, avanti, avanti Bip, avanti Bip. Mario mi ascolta, perché io non l'ascolto, però la colpa è della mia antenna, eh. Natalino Alfa 1 da questa parte, buonasera. Ciao Natalino, ebbene, non è piazza? Negativo, negativo, non si fa trovare il tipo, ho visto dove frequenta, adesso gli scatto una bella fotografia e lo faccio arrestare. Ma chi, quello che c'ha la chiave? Quello che deve essere arrestato per spaccio. Falla arrestare subito. A bancare di voto vinilla Nunu. Perché spacciatore pure? E allora? La giudico con un drogato, mi che sfaccendi, no? Adesso te lo pizzico col teleobiettivo proprio quando lui sta spacciando. E mando tutto in questura. Ciao Natalino. Tieni, salutato, buonasera. Ciao Claudio, porrotore, ciao Natalino. Che vuole entrare avanti, entra una faccia maniera. E c'è portante, è una voce di ragazza. Vabbè dai signori, tanto ve li ho fatti gli auguri, io me ne passo un po' retti, tanto quando c'è portante non mi piace il modulare, là. Ciao a tutti. Qualcuno ti ho passato sopra, Natali. Ciao Natali, tanti auguri a te famiglia, ciao ciao. Grazie, ciao. Per carità di Dio. Questo è l'augurio di fine anno. E quello che è venuto a me gli deve venire. Tu fa per andargli bene, mi, e che non esca al vivo. Ciao, si prassi, Marta. Ciao, ciao. Ciao, già. Hola. Ti faccio gli auguri di un buon anno, sperando che tutti i problemi siano risolti, e niente, novità nessuna? È negativo, non si riesce a trovarlo qui. Non ti ho ascoltato, Natalie. Ho detto negativo, novità, negativo. Sì. Vabbè. Vabbè, ho la pazienza, è la prima delle virtù, si sa, no? Sì, vedremo di risolvere, se no è un problema. Vabbè, l'importante è non essere tanto. Non è che... succederà niente. Cosa volevo dire? Ma chi c'è qua? C'è qualche altro? Sono entrato, t'ho sentito, perché sto ascoltando anche da un'altra parte, e quindi non so se ci fosse qualcun altro. E anch'io stavo ascoltando da un'altra parte, ma l'hanno chiuso, quindi ho chiamato qua a vedere se c'era qualcuno. Qua non ho sentito nessuno. Ho sentito Gianni prima, ma hanno chiuso. C'era Gianni e un altro, adesso non mi ricordo chi c'era. Ah, è Carlo da Porta Torres. Qui ha iniziato una portante forte e ho chiuso anch'io. Ah. Continuano a esserci portanti, quindi, cioè non perdono il vizio, così è. E la portante di fine anno, quella è. Ma io non capirò mai che questo ci trovano. Entrare nella testa della gente quanto è difficile. Purtroppo hanno questo vizio qua, non so che gusto ci prendano a disturbare. Possono entrare a parlare almeno, invece no, si mettono a disturbare e basta. Che poi la maggior parte di queste portanti non fa neanche testo, ecco. No, perlomeno a me non mi danno fastidio, però il pensiero che qui si mettono portanti a prescindere, così, giusto per gusto, cosa li puoi dire, che sono degli imbecilli e basta. E la stavano mettendo a Gianni e a Carlo anche, quindi mettono portanti a prescindere, cosa vuoi che ti dica, purtroppo. Sì, sto facendo una spazzolata sui canali TV satellitari di Astra, è una cosa che non si crede, il 90% oramai dei canali sono tutti criptati e quelli liberi sono tutti canali commerciali, cioè veramente il satellite sta decadendo e non vale la pena neanche. Meno male già non ne ho io, cioè la parabola qua non prende, a meno che non la metto sul tetto, capito? Ce l'ho dentro il televisore il decoder per i satelliti, ma purtroppo non mi funzionava la parabola e allora ho lasciato perdere. Perché? Cosa c'è? Palazzo Davanti? No, non prendeva i satelliti qua, dentro il vicolo. Bisogna che la metti fuori dal tetto questa parabola per poter agganciare qualche satellite, se no niente. Proprio non li prendeva. Forse è questione di puntamento e andata lì. Oramai se non c'è lo strumento con tutti i disturbi, i casini vari che ci sono, sta diventando un'impresa, poi ce ne sono tantissimi di questi satelliti. Una cosa un po' strana. Poi tanto succede anche, magari da te arriva anche la fibra. Lo guardi via computer, quello che ti vuoi guardare, fai prima. Sì, infatti. No, ho puntata bene con lo strumento e tutto. Uno strumento grande aveva questo tipo che le piazzava proprio. E purtroppo non. C'è un palazzo davanti al mio, praticamente è troppo stretto e quindi deve essere che impattava proprio su quel palazzo e gli faceva zona ombra al satellite. Sì, guarda, io ci sono qua la bellezza, credo che siano agli 800 canali, di questi 800 li sto girando una pentola incredibile, ne sto trovando fino adesso su 800, ce ne saranno una ventina, forse una trentina di quelli liberi, e tutti gli altri ho ancora la cosa lì, la scheda, oppure sono proprio criptati perché devi avere l'abbonamento, una cosa, cioè quasi inutile, infatti penso che se continua così non lo so che futuro ci sarà per questi mezzi. A me mi è rimasta la parabola, ho smontato i pezzi per non rubarsela a quello di sopra, se no magari si rubava anche la parabola, perché là. E sono riuscito meno male a vendere il decoder nuovo che avevo satellitare, appena comprato, perché proprio perché non sono riuscito a ricevere i satelliti. Meno male sono riuscito a vendermelo, l'avevo pagato anche parecchio. Sì, ma io adesso sono sull'AFA, sul Tubird, sicuramente c'è qualche cosetta in più, però è tutto chiuso proprio, non vale la pena, tanta fatica, si può dire per niente, perché dovunque vai ti dai canali, ti dà tutto, però alla fine nessun modulo come un'interface. E secondo loro tu devi andare a comprarti per ogni cosa la cam. No, non fanno. Non funziona così. Poi magari su internet ci sono tutti in chiaro pure. E infatti. Cosa? Cata quella. Se devi farti gli abbonamenti per ognuno, già ti costa. Sì, infatti io ne ho staccato anche il motore, tanto stava difettando. E niente, ma a questo punto, a meno che non si vuoi vedere quelle arabe, però te ne passa la voglia. Allora ci sono, su privativi ci sono dai 10 arrivando anche ai 20 canali, tutti ripetuti, tutti gli stessi. Praticamente è come se ci fossero 10 Rai 1, 10 Rai 2, un casotto. Sì, infatti. Siamo col digitale terrestre, boh. Io già mi si dice. però in questa televisione c'è anche il decoder per il satellite, c'è la presa per attaccare l'antenna al satellite, c'è l'affare per mettere la scheda, tutto integrato in questo televisore, però chi se ne frega, dato che non sono riuscito a prenderli, mi ho venduto il decoder e via. E mi è rimasta la parabola, nuova. Io l'ho presa nuova perché era consumata, ora che c'avevo l'altra settimana. È costata una fesseria, non mi ricordo neanche quanto ho pagato, ma non più di 20 euro, guarda. Io non me lo ricordo quanto l'avevo pagata. Ne ho tolto i pezzi, così anche se la ruba chi se ne frega, non la può usare se non ha i pezzi. Giusto, miserabile, se la può rubare. Non vale. Ma credo mi è sembrato usare neanche da 13 euro di questa parabola. Se io fuori dalla porta c'ho un contenitore dove si mettono gli ombrelli, anche agli ombrelli si attacca questo. E poi dice che non è lui. Immagino che ci hanno tante persone che passano lì. Non c'è nessuno. Quella che c'è dal terzo piano non ci abita più perché è andata in Germania, è andata a finire. C'è solo lui. Anche agli ombrelli si attacca, ma dimmi tu. C'è tutta pubblicità, tutta, canali inutili, uno spreco in termini di tutto proprio. Secondo me il satellite sta guardando il simbolo dello spreco. E infatti se sono così come mai detto i canali, prima già era tolto quando c'era Sky, quando vedevo tutto io. Sì, anche Sky se n'è andata, è passata la rete. Ma è perché no, a parte che è carissimo andare in trasmissione su satellite, ma sta diventando una cosa solo che può interessare a chi non c'ha nessun segnale, a chi vive lontano dai ripetitori, ma guarda, io sono a metà strada, sono a 405, al canale 405. L'unica cosa è bello, sai cosa c'è? Che c'è il 4K, ci sono un paio di canali in 4K e puoi vedere la differenza. Però per l'altro no, il gioco non vola a candela, ecco. Ma una volta che ti sei stancato delle demo che ti fanno in 4K, ce lo puoi anche buttare, capito? Forse per quello che te l'hanno infilato lì nei televisori quasi a gratis, perché tanto non sanno che la gente sta lontanando piano piano. Infatti, poco fa c'era Roberto che stava chiacchierando al piano di sopra, era, e stava chiacchierando con uno di Alghero. Ho sentito anche a KB. No, ho fatto caso. Niente, che ne abbiamo fatto e sono quasi le 7 tra poco. Nathalie, allora, so che devi uscire, devi andare in un ristorante a farti il capodanno, così. No, già rimango a casa, già. C'è il braccio che mi fa male da ieri notte, che mi sono fatto il vaccino, però questa volta mi ha pizzicato al braccio. Sì, il Pfizer fa così, ti dura un giorno, due giorni al massimo, poi sparisce tutto, non c'è problema. E sono 4 i vaccini che ho fatto. Ho fatto i vaccini, mi pare ci sono ammazzati. No, più che altro stanno muovendo quelli che non hanno fatto. Stando a quello che stanno dicendo, gente che è in ospedale, gente così del popolo. Quindi guardano loro. E poi stiamo andando verso l'obbligo. Un obbligo mascherato, perché praticamente non puoi fare niente, tra poco secondo me non potrei più uscire in casa. Vabbè, li ho fatti tutti, quindi me ne frego, peggio per chi non li ha fatti. Sì, infatti, lo sai che a me mi è arrivato già il messaggio e mi sono scaricato il nuovo Green Pass. Infatti, mi sa che lo facciamo, lo fa, se ne sta in casa tranquillo. Quelli incoscienti invece se ne vanno in giro, senza essere vaccinati e niente. E vadano, li ho messo a casa io. Sì, ma anche fuori, guarda, in Germania, in Francia, sta facendo strage di non vaccinarsi. Sta facendo strage, non so poi cosa, ne devo fare al nord lì, adesso non mi ricordo se la Svezia, quale paese sta massacrando proprio. Come si dice, peggio pareti, dal senno di poi si stanno riempendo le fosse, in questo caso di dire. Ma se c'è gente che dalla rianimazione gli hanno fatto il video, no? Che questo era Novax praticamente, non era vaccinato, implorando alla gente di vaccinarsi, perché rischi la pelle, non c'è nulla a fare. No? Poi c'è un'ignoranza, non hanno la più pallida idea di quello che significa essere intubati. Io, a me è capitato proprio di vedere una persona che non era intubata, ma aveva il casco, no? C'è un casco respiratorio particolare, che è l'anticamera dell'intubamento, quello, ma guarda, un'impressione, questa persona si vedeva che stava soffrendo come un cane proprio, ore e ore, col rumore, poi pum, pum, pum, del respiratore che impoppava aria, ma forte, proprio aria continua, sembrava una di quelle bombole aperte, no? Il tipico rumore che fa quello ed era una persona che non ha neanche tanto, non è neanche tanto anziana, era abbastanza, avrà avuto una cinquantina d'anni, ma sarà ridotto già quel casco in condizioni che vi è male anche a raccontarlo. Figurati quando ti intubano, quelli già sono dolori. E a me mi hanno intubato quando mi è venuta la pancreatite, non mi avevano intubato a me. Tu eri sedato parecchio, capito? Ma altrettanto non si può tenere, poi rimane intubato per un giorno, due giorni. Quando ti operano, ad esempio, la prima cosa che fanno è, prima che ti svegli, è togliere i tubi, ti lasciano solo i cateteri e basta, perché sennò è triste, a meno che non sei gravissimo, allora. Per miracolo, quando mi è venuta la pancreatite mi hanno intubato e non mi ricordo quanto tempo sono stato intubato. Passiamo ad altro, sorvoliamo. Ecco, registrato. Sì, decisamente passiamo ad altro. Solo ricordare certe cose già si distrae. Avanti Breck, buonasera Gianfranco in compagnia di Natalino. Ciao Gianfranco, buonasera e buonasera anche a Natalino, mi ascoltate, sì? Certo che ti ascoltiamo, un po' ribombante, sì, ma già ti ascoltiamo, Fra. Buonasera. È ribombante perché c'è freddo qua, capito? Ciao Gianfranco. Ciao Franco. E dove sei? Tra l'altro le temperature stanno un po' alzando forse anche le giornate credo che siano in fase di allungamento adesso. E sono a casa di Anfra e ho acceso la stufa perché qua diciamo che c'era un po' di freddo e quindi ho acceso a scaldare un po'. Sì, stavo leggendo un po' di elettronica qua. Tutto lì, vai Natalino. Cappa, anche io l'ho accesa la stufa. Perché c'era freddo anche qua. E allora l'ho accesa. Ma già sin cabu, che leggermi l'elettronica, no? Boh. Tanto se non riesco a fare quello che devo fare, cosa faccio a fare? Vabbè, ma abbiamo deciso di fare quella cosa là, non la vuoi fare più, non lo so. Che cosa fai? Che una scala di quelle costa minimo 250 euro, mi hanno detto, stamattina me l'hanno detto. Quanto? Non ho capito. 250 euro minimo, Vivoni. Caspita, un pacco di soldini. Non lo so fino a quanto ti conviene, Natalia. Lo sai dove l'ho visto al tipo? L'ho visto al Moccador di via Giovanni Pascoli. L'ho visto. Impara un drogato, lo sai che spaccendi. Ma io bisogna che mi appusti lì con la macchina fotografica, col teleobiettivo, con tempo di fotografie, da lui si ribocca in questura, vedi se riesco a farlo ritirare a bancare un po'. Certo che... Certo, 250 euro che cosa? Il tubo o il telescopico? Oh, la scala! La scala? Quale scala? La scala, bisogna avere due scale, no? Una ce l'hai tu e una la devo buscare io. Se non busco la scala non spendo 250 euro, perché vuole 6 metri la scala minimo, perché lui è a 6 metri da terra. 250 euro una scala a 6 metri, mi sembra molto strana la cosa. Allora io ne ho una in alluminio che sono 2, 4, 6, 6 metri in alluminio e apri allungare. Ho pagato 80 euro mi sa la bricone. Ma boh, se è così me la miglio subito. Lascia andare tu. Perché io ce l'avevo in campagna una scala di quelle telescopiche in alluminio, no? Però l'hai facciata, mi avrà detto. Lo metto di sopra e facciando, perché a me mi serve minimo 6 metri, perché se no non fai nulla se non arrivi a quell'altezza lì. 6 metri, no. Non so quanti metri sia, se 6 metri o meno. E due scale ci vogliono lì, no? Se no non puoi fare niente. Perché bisogna essere in due a mantenere il tubo, è quello che toglie la pipetta e noi dobbiamo farlo scendere piano piano il tubo in modo che tocchi in terra, capito? Sì, sì, ho capito. Praticamente bisogna legarlo il tubo, sganciare la staffa, quella staffa che c'è ad L e quella che hai messo, e poi farla scendere piano piano, sino una volta che tocca a terra poi è risolto. E infatti, una volta che tocca a terra è risolto, che lo fai scendere come ti pare ti piace. Però 250 euro mi sembra un po' esagerata la cosa, non so. Mica chi sa chi va più vivere, la vedda a me. E l'ha rotta mio fratello purtroppo, sarà due pezzi solo, saranno i 4 metri, non va arrivima anch'io, un prezzo. Se no vi piglia duchissa. Cosa vuoi che ti dica fra? Purtroppo sono inguaiato. Questo qui non si fa vedere, perché tu non lo senti più, il cane non abbaia più, cazzo. Deve cessare piano piano per non farsi sentire dal cane, lo sai che lo becco io. Sicuramente ci ha messo la gomma piuma nelle scarpe, altro sistema non è. Non lo so, bisogna... per portare in quel metodo lì come ho detto io, l'unica alternativa è quella. Vai Gianfra. Questo sì, si mette un'antenna, mamma mia, mi sembra un sogno brutto questo. Un romanzo ci facciamo a posto delle mie prigioni, le mie antenne, così è nata lì. E infatti se lo becco io col teleobiettivo vedrai che le sue prigioni si avverano subito a Bancali, che c'è area buona lì, lui deve stare lì. ti dico quanto costa sta benedetta scala. Adesso te la cerco, vediamo un po' se c'è. E io ce l'avevo in alluminio telescopica, ce l'avevo già fra. Ho capito, però. Però i prezzi della scala, quelle professionali, sono care. Quindi, guarda, esempio, ti faccio l'esempio, una forbice 5 più 5, quindi in tutto sono 5,46, omologata EMI 131, costa 160 euro. La scala poi in alluminio, con 3 gradini, l'altezza, quando me la dà, se ti do l'altezza, se me la dà, l'altezza, l'altezza va bene. Portata a 150 kg, quindi non ti regge a te. 6 metri e 15, tra l'altro c'è anche la scala per mantenerla, è a forbice, no? Quindi anche se non ci fosse un muro è tipo trapazzello, arriva a 6 metri e 15, 219 euro. Te l'ho detto, si aggira su quel pezzo lì, 250 mi aveva detto Luca stamattina. Sono in tutto tre scale, una che sale, che è scorrevole, no? Come tutte queste scale telescopiche, e poi ce n'è un'altra che fa da piedistallo, quindi non è necessario neanche appoggiarla al muro per certi versi, si può lavorare in sicurezza. Adesso ti cerco quella che è senza appoggio, dai, che non è a forbice, diretta, sempre telescopica ma diretta. Certo, 220 euro, mai euro, costano un sacco. Se non è che riesco a farmela prestare da quello che è piazza e condizionatori qua vicino, quello ce l'avrà sicuramente la scala. Allora, a te non ti conviene comprarla, se c'hai qualcuno che se te la può prestare è meglio. 250 euro di scala, poi ci sono altri 300 euro di tubo minimo. Ehi, allora, tu hai visto il problema? Chi ha giù di pindi un bel di là a piazzare un'antenna e due di quelle piccole. Boh. Ma dove vai? E mi tocca cazzo i pindi tutti gli cd di là, fai su un famone che non è altro. E io mi... Non vale la candela, Natali, no, non vale la candela, cioè sputtarci tutti questi soldi, cioè, boh, non lo so sino a quanto conviene. Natali, guarda, se ne vuoi quelle professionali, ce n'è anche da 4 metri e 46, in alluminio professionale omologato, 289, praticamente quasi 300 euro. Ce ne sono altre che arrivano anche a 9 metri e 92, a 658 euro, scegli tu quella che ti serve. Cioè, te lo sto dicendo, non è possibile. Quella diretta trovata l'hai, che facciamo 6 metri, là. Ma scusa, ma perché non te la prendi in ferro, ho capito. Perché comunque spenderebbe per l'autocarro, perché 6 metri quella in ferro non c'è componibile, ce l'ho io in ferro da cantiere, non è così facile lavorare con quella serve giusto per salire. È una di quelle praticamente, io ce l'ho in alluminio 6 metri, però non è a forbice, è di quella che entra un pezzo uno dentro l'altro, capito? E queste sono telescopiche. Sono telescopiche, capito? E i prezzi sono così, anche perché per chi lavora devono oramai essere questa roba omologata, capito? Se no non la potrebbero neanche usare, perché se succede qualcosa tutti inguagliamo di brutto. Purtroppo questi sono i prezzi da bricco, Secondo me ti conviene, Gianfra, cercare qualcuno che ce l'ha se gliela presta, capito? Magari già c'è qualche persona che ce l'ha, gliela può prestare. Tanto è una mezza giornata, non è che serve. Cioè buttarci 250 euro non è vale la candela per usarla un'oretta, si può dire, neanche. Ma dato che quelli, se c'è uno che piazza condizionatori, tu ci vai, lì ci ascolti, a me il condizionatore non mi serve, però mi serve che mi fissi, che ne so, che mi tolga dalle staffe, che faccia questo lavoro, e se lo fa lo pago lo stesso. Certo spenderai quelle 100-150 euro, però almeno c'è uno che mette la scala, sale, fissa, te ne toglie quella che c'è e te ne mette un'altra, molto semplice. Qualunque soluzione scegli, bisogna sempre. Io la scala non me la voglio gratis, io non pago, capito? Sempre che me la presti. Ma prova a chiedere a Marco se ce l'ha qualche scala, non so cosa dirti. A chi Marco? Quella vicino io, e se ce l'ha gliela provo a chiedere se me la presta. Fatti fare un preventivo da quello del condizionatore, dici, ascolti, io non voglio che mi installi il condizionatore, ma che faccia questo lavoro. Ti fai fare un preventivo, tanto a chiedere non costa niente. 150 euro, 150 euro ti prendono una tariffa. Per che cosa? Per fare quel lavoro, con la scala, tolgono la staffa e ti mettono altre staffe, 150 euro, te lo sto dicendo, sarei 150 e 200. E fanno tutto loro. Stappa di positivo, ti piattano l'antenna, ti piattano le staffe e tutto, ti piattano l'antenna col tubo e tu baghettato. 150-200 euro, hai finito di soffrire e non fai niente, fanno tutto loro. E vabbè, le antenne le dobbiamo piazzare noi sul tubo. Così è. Sì, purtroppo. Di solito piattano condizionatore prendono le 200 o le 300 euro adesso, capito? Sì, adesso lasciamo passare le feste e come apre il negozio ci vado e glielo chiedo se me lo fa. Se no bisogna recuperare una scala e tutto lì, capito? Adesso provo a chiedere a Marco, vediamo un po' se ce l'ha lui. Anche Marco gli fa queste cose, te lo posso chiedere. Infatti. Ecco Marco, quanto vuoi per fare questo e quest'altro? Ma io penso, guarda, se li paghi la giornata una tantina di euro te la fa, dandogli una mano tu però, eh. E le antenne, l'antenna me la piazzo io, è tutto. La bongo sopra di 4 metri di tubo e via. Il tubo che ho comprato nuovo. Eh sì, però quel tubo non ti basta, giusto? Sì, sei infilato in quel tubo che c'è adesso, va bene. Ma non cammino, ci scrivo, non lo so. Perché c'è 3 metri fuori. Eh sì, va bene sì. Non c'è bisogno neanche comprare quel telescopico, perché se c'è quello ci infili direttamente quello da un pollice e si accavallo. I 4 metri li butti dentro, entra all'interno di quello da un pollice e mezzo, chiaramente. È risolto. È tutto lì. Vai Gianfra. Infatti. Certo non utilizzare tubi pesanti che non servono a niente per quell'antenna. Io guarda, anche ieri ne ho fatto fuori uno che era di 4 metri, di quelli da punteggio, troppo pesante. Adesso ho fatto tutto con tubi leggeri, che ho visto anche i 20 forti telefono. Anche con la cosa, dicono la Game Master, no, non succede niente. Infatti io Gianfra ho un telescopico da 8 metri, cioè 2, 4, 6, 8 metri e va benissimo, capito? No, è leggerissimo, va bene, ho visto che tiene bene, per cui non ci sono problemi. Sì, la mia non c'ha neanche tiranti, eh. Neanche tiranti ho messo, giusto il cavo che scende un po' in trasversalmente. Perché non bastava, se no, e ho visto che va bene, quindi tra l'altro spendi anche molto di meno di andare a comprare dei tubi pesanti o d'acqua, che sono ancora più pesanti, perché forza di vibrare, a forza di andare, se ne stacca tutto quello che trova. Sì, sì, questo è. La mia me l'ha piegata addirittura, mi ha spaccato le stanze, ci avevo 2 metri di tubo d'acqua io. E poi è pesante a portare sull'antenna, ui ui, per carità. Vabbè, infatti io Natali non te lo volevo sconsigliare quel tubo che hai preso, ma oramai l'hai già preso e pazienza, tutto lì, capito? Ti stavo dicendo, ma per quegli alimentatori li ordini? Che cosa ordino? Prima devo riuscire a piazzare l'antenna, poi gli leggio. Se riesci a piazzarmi l'antenna, allora lo voglio. Allora visto cosa ho fatto qua? Ho fatto sparire tutto, cosa che mi già mi ha buttato la questura e subazzo. Ho capito, no, vabbè. A me mi serve un alimentatore perché quello che ho mi stava dando problemi. E poi è mezzo andato, fa un sacco di rumore alternata. Se hai fretta posso ordinarti il tuo. Vabbè, vabbè, fretta non è, ho già c'ho l'altro, quello da 32, sto pilotando con quello. L'altro c'è il trasformatore andato, sicuramente ha perso l'isolante che c'è all'interno e vibra un po', capito? Tutto lì. Andar bene Meda, riprendi Gianfra. Sì. Da stare attenti con questi più pesanti perché ovviamente col peso che hanno sono anche pericolosi sia da installare e sia quando c'è molto vento perché la forza che esercitano sulle staffe è micidiale. Tu figurati che i tubi da ponteggio, quelli da almeno da 6 metri, no? O innocenti o come li puoi chiamare, che sostengono l'antenna. Erano sul traliccio, che il traliccio non si muove perché è ben fissato, cocciamento armato. Non è riuscito a prendersela con l'antenna, si è presa col tubo e me l'ha piegato. Dopodiché una volta che te lo piega, quei tubi non servono più a niente, perché rimane piegato comunque. Non lo spezza perché è troppo grosso. Però se lo piega e ti trovi l'antenna che sembra che ne stia cadendo da un momento all'altro. In definitiva il tubo d'acqua è così. Lo piega, però poi addrizzarlo è un problema. Tutto lì. Invece il telescopico è meglio perché c'è la possibilità di lavorare anche meglio, perché lo abbassi e lo sollevi settore per settore, tutto lì. Sì, in definitiva io ho piazzato quel tubo, quel telescopico 8 metri, ho portato l'antenna a 6 metri e gli ho messo 2 tiranti e basta, ho visto che tiene bene. Vabbè, l'antenna pesa poco, pesa 2 kg neanche. Infatti, quando è così convengo, guarda, Natalino avrebbe fatto un bel lavoro tranquillo con quei tubi telescopici che adesso non si trovano, quelli da 3 metri. Da 3 metri metteva quelli, uno dentro l'altro, volendo poteva andare anche oltre i 6 metri. Però, qua a Sassari non si trovano. Provato a chiedere, sia da Grassi sia anche Frusaro, non ce li hanno. Quindi devi far arrivare da fuori a trovare un altro posto che ce li abbiano. Sono tutti da 2, se no avrebbe potuto fare un bel lavoro veramente. No, già ci sono già Gianfra, io li ho visti da quel ragazzo che lavorava prima da Melchione Elettronica e ho visto che ce li ha quei telescopici lì, però sono a setturi, capito? Sì, ma sono da 2 metri, non da 3, perché io glielo ho chiesto, ma tu parli quello che c'è di fronte a Ennas, diciamo, dai, non proprio di fronte, però sulla via dove c'è anche Ennas, però sull'altro lato, al curvone, quello è Giorgio Grassi. No, non quello, no, quello che rimane praticamente dietro Cesaraccio. Dietro Cesaraccio, perché ha aperto un negozio quello? C'è un negozio, c'è da un bel anche lì, e poi lì vicino c'è un circolo anche, dietro Cesaraccio. Dove c'è Cesaraccio? Praticamente alla parte di dietro c'è questo che vende questa roba qua. Tubi telescopici, antenne TV, tutta questa roba, satellitari. Ah, non so, non lo sapevo. Forse perché è nascosto, non c'è nessun cartello. Eppure ci vado spesso da Cesaraccio. Avrebbe anche risparmiato parecchi soldi in Natalia. ma soprattutto il bello è che se succede qualcosa li può sostituire, li può anche assicurare meglio di uno di quei tubi là, perché le mette in caso di rottura, che si spezzi dentro, le può mettere un cavo di sicurezza, così se succede qualcosa non cade in testa a nessuno. Insomma, può fare tante cose, là, sono più lavorabili. Ma in definitiva sì, è così, capito. Ho recuperato già fra un Midland di quelli vecchi, vecchi, vecchi, piccolini. Bellino, eh. Solo che non c'è il modello, però c'è solo la M, non l'FM. E allora, giusto al museo. Natalie. Ui. E 40 canali, Gianfra. Sì, vabbè, ma oramai per un centinaio di euro si danno quelli grandi. Cosa ne fai? Natalino, su, dai, ti prendi uno di quelli, te ne prendi 4 da 3 metri, anche 5, fai un'antenna di, fai un tubo di 10-11 metri, lo alzi appena appena da terra e poi te lo fissi tranquillo, antenna è tutto, tanto è telescopico. Qua con 50 euro, 60 euro compri tutto il telescopico, Natalino. Vabbè, ma bisogna lampare in terra ghiccio. E quella te l'ho detto cosa bisogna fare. Adesso non ti mettere problemi. Bisogna andare, prima di tutto se si trova quella roba lì, recuperare quella scala e si fa il lavoro. Cioè, non è un problema, eh. Purtroppo questa qui è rotta, quando piove non puoi manco modulare perché ti servono le stazionali 2,5. Ma infatti bisogna risolvere quel problema, tutto lì, capito. Natalie, ti ho detto, chiama il vigile del fuoco, con quale scala in legno, lo sai come ci salgono lì? Io credo di azza niente, ma... loro lavoro, prendono, attaccano e vanno via. So che quelli mi sa che costano molto più cari anche della scala aerea. Peccato che se n'è andato in pensione mio cugino, se no me l'aveva fatto gratis e subito. Era giunto in chivi, due colpi e poi c'è l'antenna, senza manco guardarmi chi su Baroveccio che vaggio. Chissà chi venne, si l'aveva lampata in carriera e avrebbe fatto una nuova subito. Peccato sono di quello, che non conosco altra gente, se no se Lili non era stato in servizio me l'avrebbe fatto. Oh fra, sarebbero andati con le sirene però, eh. Beh, fai frutta, ma avevi più impressa. Se potevi vedere di gente lungo il vicolo, ti veniva anche vigili per disciplinare la folla. E già che ci siamo anche una volante, dai. E stamattina per poco me ne brincano addosso una di quelle dei carabinieri, con la sirena, lì ne stavo facendo la farmacia. In via Rosello lì, con le sirene sono arrivati, chissà cosa cavolo dobbiamo fare. E non ti hanno investito? Io mi sono scansato anche se avevo il baccolo. Ah, c'è il baccolo. E beh, col baccolo sai che danno più punteggio quando ti mettono sotto. E già lo so. Franco, tu fai doni con il baccolo, non ne hai mai pizzicato. Franco si è allontanato, forse. C'era anche mia moglie, gatta. Poi mia moglie, siccome io me ne sono andato per i fatti miei, mia moglie ha detto che ne è arrivata un'altra di pattuglia, due pattuglie. Il solito affarratorio magari, tanto già ce ne pochi di elementi in giro, per carità. Forse a Bancali non ci stanno più, deve essere già pieno. Cosa vuoi che ti dica? Sai, da noi c'era un cartellone con un detto, no? Che muoiono le pecore, muoiono, cos'era? Muoiono le vacche, non so, muoiono gli uomini, ma rompi puntini, puntini, puntini, non rompono, non muoiono mai. E infatti, ma non so cosa faccio, gira, girami. Oh. Lo tempo quando non c'è gli faccio occupare la casa da una greffa di rumeni. Peccato che poi quando esci di casa te li trovi da sé. No, che c'ho il portoncino blindato io. Abbiamo ed è antiscasso pure, il mio non riesci manco a aprirlo, manco con la cosa, perché non entra la, come cavolo si chiama, quella che usano i vigili del fuoco per aprire i portoncini. Poi io gli ho sempre le girate della chiave, quindi non c'è nulla a fare. Mettono il trizzolo, maestro, ho capito. E la fanno saltare, non è un problema. Ma dopo io li faccio saltare la testa e c'ho sempre la glocca appresso, capito? E non sbaglio perché sono allenato. Ma cosa vuoi ti dica? C'era potuto risolvere, però hai trovato quella persona lì e non ci puoi fare niente. Tutto lì. E tutto lì, mi pare che fosse tu sì, mi li posso occupare a casa di isso. Così li chiudi nel muro. Quando vanno a pigliare posso salire a casa. Gianfra, secondo te è una bella idea questa? Non molto, perché quelli cercano i soldi poi. Poi fanno il buco da sopra e ne entrano in casa o scendono pure dalla finestra. Tu figurati che davvero prima mi hanno raccontato che c'era, diciamo, quelle grondaie, che non erano neanche di metallo, era, se era metallo era di quello leggero, di quello strano. Questi sono saliti dal tubo alla grondaia e sono andati addirittura al secondo piano. Non al primo, al secondo, col rischio di ammazzarsi. C'era uno specializzato che poi credo che sia morto proprio facendo quell'operazione lì, se l'hanno trovato in camera da letto. E il tipo, quando ha visto che si sono svegliati, è scappato, no? E comunque il proprietario è rimasto contento, ha detto, perché se c'era il mio figlio c'ha sempre il fucile a caccia nella sua stanza, si avrebbe sparato e magari poi ci avrebbero messo dentro pure. Infatti, oggi la legge è per il delinquente, bisogna stare un bel attenti, capito? Proprietà privata, tu spari una persona, te la fanno anche pagare. E me la facciano pagare, se cerca di entrare qua gli sparo in bocca io. Ma sai qual è il problema? Che tu non c'hai la campagna, perché a qualcuno qua la polizia le ha detto, anche se qua è rarissimo perché sono tutti armati, ha detto sparatele, però non ci chiamate a noi, fate un bel buco e ce lo mettete dentro e tappate bene. No, in pasta ai maiali bisogna darli, così manco le ossa trovano. Ma con quella gente le viene il mal di stomaco, anche i maiali che fanno schifo. Sì, sono pure armati, bisogna stare anche attenti, capito? E proprio perché sono armati, gli spari subito in faccia e li crepi una volta per tutte. E tu impasta i maiali come fanno a Nuoro e non trovi manco le ossa più. No, io, per carità. Sono, purtroppo esistono ancora di queste persone qua, capito? Oiui, per carità. Ma addirittura l'ho chiamato io a questo tipo, neanche mi ha chiuso il telefono in faccia, capito? Ma noi lo vorremmo acciappare, la acciappiamo alla Moccador. La acciappiamo, l'ho visto io alla Moccador, non mi sono potuto fermare perché ero in macchina con mia moglie, se no già mi fermavo, è vero di Dio. Così si chiamo di pigliare la Ravona. Gli ho offrito il caffè. E allora gli ho offrito il caffè, se poco a poco faceva lo scemo, lo picchiavo lì lo stesso, subito lì. E ripartì quasi i libri mi sei mesi di pidare, quando mi chiama poi bagava qualcuno a cui lo voglio. Ma quello non vuole prendere ragioni. Come ha sentito il tuo nome mi ha chiuso il telefono, capito? Ma che macco, come c'è un cavallo di scalloni? Ti so che disegni, se non piglia ragione, da voi non ne piglio io ragione. Ricordo voci mi, vedrai che lui deve fuggire da Sassari. Se lui a me mi proibisse di mettere l'antenna, perché io ho il permesso del padrone, già siamo andati assieme, lo sai, no? Che il padrone non ne sapeva nulla di questa storia. Ma lui è un bugiardo da me. Perché è un bugiardo anche, tra l'altro. Vedrai che io a lui lo sei voi. Io non so più come dirglielo. Io mi gioco la pensione per lui, ogni mese lui ha una susa assicurata, ma da gallo in terra sanguroni. Però il problema, il padrone del casa ti ha detto che problema non c'è nessuno e puoi piazzare l'antenna. Il problema è che devi entrare dentro casa sua e tu non puoi entrare dentro casa sua, capito? Basta che me lo mantenga lui il tubo, io non devo entrare in casa sua. Lui mi mantiene il tubo e me lo fa scendere in terra, poi gli altri si chiama il benzino da terra. Ma è quello il problema, che lui non ne mantiene il tubo, capito qual è il problema? Il problema è quello, capito? Tutto lì. E purtroppo non si può, non c'è alternativa. L'unica alternativa è due scale, come ho detto io, sganciare quella staffa e farla scendere piano piano quell'antenna. Anche secondo me si rompono anche tutti i radiali come scende, perché sicuramente quando scende va, i radiali toccano sul tetto e spacca quanto c'è. E chi se ne frega, tanto è rotta. Tu non te ne fai nulla, se no avremmo cercato di non romperli i radiali. Ma chi se ne frega a questo punto, anche se si rompe quella l'antenna non me ne sbatte nulla. La volta più ti racconti un cassonetto. Qua antenne ne ho io una, c'ho una Ringo, ne ho una uguale alla tua, c'ho la Master, c'ho, poi cosa c'ho? Una Mantova 1, ne ho un casino di queste antenne. E allora che problema avete? Ah, infatti. Il problema è che si rompe il radiale, ma poi la prendi e la butti al cassonetto, tanto cosa te ne fai con l'antenna? Entra acqua, ti crea stazionari e tutto lì. Sono state progettate malissimo con le antenne.